Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nel 2010 cade l'anniversario della morte di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, il pittore che più di tutti è stato celebrato con molte rassegne e riletture del suo personaggio. Una di queste mette in evidenza il suo lato ironico e irriverente. Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, pittore provocatorio sino a quando i fatti luttuosi della vita lo fecero precipitare nel più cupo sconforto, aveva dimostrato un'inclinazione a infondere nelle sue opere una buona dose di ironia. La vediamo a partire dall'autoritratto in veste di Bacco della Galleria Borghese di Roma, quadro efficacemente intitolato da Roberto Longhi «Bacchino malato», per l'aria da convalescente, il color pallido dell'epidermide, un che di sfrontato e dispossato, affiorante nell'espressione di quel personaggio tutt'altro che rassicurante. L'ironia viene profusa dal Caravaggio anche nella prima versione del San Matteo con l'Angelo, dapprima rifiutato, poi acquistato dal marchese Giustiniani, indi distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale, dove la posa dell'Angelo che insegna a scrivere all'evangelista Matteo quelle letterone ebraiche è ripresa da un'incisione cinquecentesca di Cherubino Alberti, tratta dall'affresco di Raffaello nella Farnesina, che raffigura Giove in atteggiamento più che affettuoso con Cupido. L'ironia si insinua in uno dei più antichi quadri di soggetto sacro del Caravaggio, Il riposo, durante la fuga in Egitto della collezione Doria Panfili. Qui l'angelo musico, che allieta la sacra famiglia suonando la viola durante l'affannoso viaggio, richiama fedelmente la personificazione del vizio dell'Ercole al bivio di Annibale Carracci, oggi a Napoli. Un angelo dalle ali scure e discinto, con addosso giusto un candido drappeggio svolazzante che non lo avvolge completamente, lasciando trasparire le forme. Più tardi l'ironia si spingerà al punto da indurre il Merisi ad adottare come modello di un dipinto privato, commissionatogli dal marchese Giustiniani, l'amore vincitore ora a Berlino, il San Bartolomeo martire scuoiato vivo con la propria pelle in mano di Michelangelo, che fra i personaggi che popolano il giudizio universale della Sistina è uno dei più tragici. Il continuo passare dal sacro al profano e viceversa doveva rappresentare per il Caravaggio un connotato fondamentale del suo dileggiare i più illustri pittori che lo avevano preceduto, in particolare Raffaello e Michelangelo. L'irrisione, in un certo senso, dà conferma della natura ribelle del Merisi, ma nello stesso tempo ne rivela l'ambizione narcisistica di mettersi sul loro stesso piano. Tuttavia era più che legittimo che anche il Merisi ambisse sfilare sul palcoscenico dopo aver lavorato nel segreto dei palazzi fino al 1599, anno in cui, grazie ai buoni auspici del cardinale Francesco Maria del Monte, per la prima volta era riuscito a dipingere in pubblico i quadri della Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi. Quando Caravaggio fosse entrato in contatto con il potente porporato, amante delle arti, lungimirante, molto libero nelle scelte e nelle preferenze, ma nel contempo in linea con l'ala più intransigente della curia romana, non si sa. Forse nel 1595 e comunque assai presto. Stretto seguace di Carlo Borromeo e di Filippo Neri e intrinseco del cardinale Federico, nel vivo della Controriforma, il cardinale del Monte fu uno dei più tempestivi sostenitori dello scomodo realismo evidente nella trattazione dei temi sacri realizzati dal pittore lombardo, cui dimostrò incondizionata stima, dandogli alloggio in casa sua. Fra i molteplici interessi del cardinale del Monte, oltre alle arti e alla musica, spiccava anche quello per la sperimentazione alchemica, che il presule praticava probabilmente in modo empirico e con risultati che non appartengono alla categoria della scienza. È però certo che il Del Monte, in contatto con Galileo, possedeva una discreta strumentazione alchemica, una batteria fatta di alambicchi, mortai e fornelli, un po' rudimentale e da usarsi sostanzialmente per svago. Ogni strumento era conservato nella villa di Porta Pinciana, oggi Ludovisi, dove il Del Monte aveva allestito un gabinetto alchemico, una distilleria, come la chiama il Bellori, alla quale doveva tenere parecchio. Se nel 1597 circa affidò al Caravaggio, che aveva ormai dato prova del proprio talento, il compito di dipingerne il soffitto. La villa di Porta Pinciana era stata acquistata l'anno precedente insieme a una vigna da Francesco Neri. Il piccolo gabinetto alchemico, della dimensione di uno studiolo, si trovava e si trova in un ambiente di passaggio al piano nobile, ma curiosamente pochi storici dell'arte si erano accorti della singolare decorazione del soffitto, dimenticata forse per l'offuscamento e il cattivo stato di conservazione, nonostante la citazione nelle fonti antiche. Solo dopo il restauro, ultimato nel 1990, le figure che campeggiano sopra la testa di chi vi passa sotto hanno riacquistato la loro piena identità. Sono tre divinità mitologiche, Giove, Nettuno e Plutone, intorno a una sfera celeste che simboleggia il cosmo, entro la quale si vedono quattro segni zodiacali e due globi luminosi. I tre sono rappresentati in pose prospetticamente ardite, come solo un grande pittore riesce a fare. Plutone poggia su nuvole e si tiene appresso un cerbero tricipite che però ha un'aria domestica, un cane non di buona razza, ma ugualmente vigile e attento. Nettuno è a cavalcioni di un cavallo marino dalle zampe palmate. Giove cavalca l'aquila, fasciato da una veste di un bianco spumeggiante che richiama quella dell'angelo musico del riposo durante la fuga in Egitto. Invece, Nettuno e Plutone sono nudi. Questa straordinaria opera su muro è dipinta a olio, non a fresco, il che collima appieno con la tecnica di Caravaggio che non si applicò mai alla realizzazione di affreschi. Citato nella biografia del Bellori del 1672, la più dettagliata sul pittore, l'affresco del Casino del Monte, una volta pubblicato, divise la critica in due schieramenti. Uno favorevole a riconoscere l'autografia caravaggesca e uno contrario, ma a restauro concluso, il giudizio affermativo divenne, tranne rare eccezioni, unanime. Fra i primi a sostenere la paternità caravaggesca fu Mina Gregori, che alle prese con la lettura della curiosa iconografia alchemica, suggerita probabilmente dallo stesso Del Monte e messa in scena da un genio come Caravaggio, ventilò un'ipotesi di cui si è un po' perduta la memoria e che ora è tornata alla ribalta nella recentissima monografia di Rossella Vaudret, Caravaggio, Milano 2009. Secondo la lettura della Gregori, a Plutone e a Nettuno e forse anche a Giove, che però è in penombra e quindi ha il volto semicoperto, Caravaggio prestò il proprio sembiante. In altre parole, nelle tre divinità che impersonano gli elementi dell'aria, del fuoco, dell'acqua che compongono la materia, il pittore si sarebbe autoritratto. Per ottenere l'acrobatico effetto di sotto in su, già sperimentato da Giulio Romano nella Camera del Sole e della Luna in Palazzo Te a Mantova, il Caravaggio piazzò uno specchio sui ponteggi, si mise nudo nelle diverse pose, non nascondendo le prerogative maschili, visibili specialmente nel corpulento Plutone, il cui sesso nell'Ottocento fu nascosto sotto un drappo, che cadde in seguito al restauro del 1990. L'identificazione della fisionomia del Caravaggio, solito ad autoritrarsi in opere di vario soggetto, sia profane che sacre, è inconfondibile. Infatti, se guardiamo il volto barbuto e irsuto di Nettuno, non può non tornare in mente la vivida descrizione che compare nel verbale dell'interrogatorio cui fu sottoposto tale Pietro Paolo nel 1597. Un poveraccio che faceva il garzone nella bottega di un barbiere a Roma nei pressi della chiesa di Sant'Agostino, dal quale il Caravaggio andava ad acconciarsi e una volta andò a farsi medicare una forcatura. La deposizione rilasciata da Pietro Paolo ai birri che stavano indagando su un fatto di cronaca nera, cui il pittore era del tutto estraneo, parla chiaro. Questo pittore è un giovenaccio grande di 20 o 25 anni, con poco di barba negra, grassotto, con ciglia grosse e occhio negro, che va vestito di negro non troppo bene in ordine, che portava un paio di calzette negre un poco stracciate, che porta i capelli grandi longhi dinanzi. Tutto corrisponde a un altro autoritratto del Caravaggio, quello che lampeggia nello sfondo del martirio di San Matteo a sinistra, ed è di un uomo fra gli astanti che guarda pieno di curiosità la scena del martirio. Quest'uomo in piedi, un semplice comprimario visto di fianco, è avvolto in un mantello scuro fino alla cinta, ma per il resto il suo corpo parrebbe ignudo. Parrebbe, perché non è chiaro a chi appartengano i glutei luminosi che appaiono nel buio. Siamo comunque di fronte a un'altra sferzata ironica che è erroneo interpretare come un atto di irriverenza o, peggio, come un segno di intenzionale vilipendio. Si tratta piuttosto del divertissement di un virtuoso del pennello, alla luce del quale si può anche capire perché il ferocissimo Cerbero del gabinetto del Cardinale del Monte si sia trasformato in un vispo cagnolino meticcio, le cui tre teste sono piene di espressività. E se non fosse per quella macchia bianca sotto il muso, osserva la Vaudrey, potremmo tranquillamente affermare che a far da Cerbero il Caravaggio avesse arruolato il suo cane Cornacchia, quel barbone nero che, secondo il biografo Giovanni Baglione, era capace di fare bellissimi giochi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Bona Castellotti Caravaggio senza veli, pubblicato nel settimanale Domenica, allegato del Sole 24 Ore in edicola oggi. Fine anno è tempo di bilanci, ma quali sono le donne che hanno lasciato il segno in questo 2009, le figure significative nella politica e nel costume italiano e internazionale? Quelle che hanno fatto la differenza, che hanno fatto colpo o semplicemente hanno fatto molto parlare di sé. Un viaggio da Michelle Obama a Noemi Letizia, passando per capi di governo come Angela Merkel fino alla soubrette Elisabetta Canalis. Rosy Bindi. Da poco presidente del PD, ex democristiana, diventata icona femminista italiana da quando a Berlusconi, che le diceva «lei è più bella che intelligente», ha risposto «non sono una donna a sua disposizione». Ma ce ne sono ancora molte nella politica italiana di donne a disposizione, anche mentale. Renata Polverini. Grazie alla sua aria da donna non a disposizione, al suo successo nei talk show, al suo lavoro di sindacalista vicina all'ex AN, è ora candidata del centrodestra a governatore del Lazio. Se vincerà, dovrà governare anche il centrodestra del Lazio. Povera donna. Maria Stella Gelmini. Più che un ministro, è un parafulmine. Delle ire di studenti, insegnanti, genitori preoccupati per i tagli all'istruzione. Il diffuso astio anti-gelminiano è però stemperato dall'imitazione di Caterina Guzzanti, in cui confessa di essere una precaria calabrese, costretta a fare il ministro e a parlare bresciano. Chissà. Hillary Clinton. È un segretario di Stato molto più apprezzato del previsto. I liberals la lodano come ambasciatrice dello smart power obamiano, basato su interessi e valori comuni, invece che sulla forza delle armi. I repubblicani, che detestano Obama, a ripensarci, la rivalutano. Il marito non fa danni, al momento. Zara Ranavard Mousavi. Durante la rivoluzione comunista era un'attivista integralista islamica. Oggi la moglie del candidato presidenziale Mir Hossein Mousavi è considerata la mente dietro la rivoluzione verde. Che la mente sia una donna in Iran è un segno e un contrappasso. Purtroppo era donna, anzi ragazza, anche il simbolo della rivolta Neda Aga Soltan, caduta in strada durante le prime proteste. Catherine Ashton. Non doveva essere Max D'Alema il nuovo ministro degli esteri dell'Unione Europea? Ma che? Gli hanno preferito una laburista inglese con la faccia da insegnanti di corsi estivi per stranieri zucconi. Non possono mandarcene una anche per presiedere il Copasir? Joanna Sigurdardottir. È il capo del governo di un paese che comincia con la I. È stata eletta per fare pulizia in un paese in crisi finanziaria spaventosa. È di centro-sinistra, è apertamente lesbica. Il paese è l'Islanda, ovviamente. Non agitatevi. Elisabetta Canalis. Apoteosi globalizzata della velina, sta con George Clooney. Forse. Buon per loro. Nathalie. Trans molto amica di Piero Marrazzo e miracolosamente ancora viva, è stata al centro di molti dibattiti sull'emotività maschile. Poi non si è saputo più nulla. Lady Gaga. Diva pop alla moda. Sua, la canzone del momento, Bad Romance, molto adatta ai tempi. Avete ascoltato la lettura della seconda parte dell'articolo di Maria Laura Rodotà da Angela Merkel alla Canalis, modelli e spauracchi al femminile, pubblicato su Il Corriere della Sera di martedì 29 dicembre.